Non tocchi un palco da mesi? Non sai come fare ricorso per il sussidio di disoccupazione? Sei stanco di dipendere da un agente, un sindacato, un produttore? Basta crisi. I lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo sono arrivate. Lavoratrici e lavoratori dello spettacolo, stay tuned. Circa, lavoratori e lavoratrici dello spettacolo.